Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Radio 24, Manera sei grandissimo. Milan, gambe vium brudin. Una domanda, ma il Bortolo da Cavaillon non è per caso lontano parente del Don Bortolon, parroco de Cavaillon? E ia fialla ye cool, e ia fialla ye cool, e ia fialla, e ia fialla, e ia fialla ye cool. Il vulcano islandese, ma perché mi guarda così Veronica dicendo ma che è questo? Ma il vulcano islandese, ne abbiamo parlato un quarto d'ora ieri. Caro, già che la tua pronuncia era di tutt'altro genere, questo mi sembrava un improperio a me. No, finiva con qualcosa che, capisci, aveva un suono, no? Sì, vabbè, un po' onomatopeico. Capito? Vabbè, era un vulcano islandese, mi guarda con due occhioni giganti della telecamera di Roma a dire: ma che sta succedendo? Come a dire, in ma davvero momento? Stiamo mandando in onda questa cosa e verremo tutti cacciati? Sì, sì. Era quello l'occhione invece sbarrato. Invece no, buongiorno signori, funamboli, sono tornate alle 9:09 minuti. Ah, tra l'altro, io devo fare subito un saluto e una protesta formale nei tuoi confronti. Cominciamo. Allora, saluto, no, vogliamo salutare Miriam Lucchetti che si è aggiunta alla redazione dei Funamboli. È un ritorno e c'erano tempi in cui si svegliava alle 5 con me e ci ritrovavamo come due stracci bagnati alle 5:30. È andata meglio questa volta, dai. È andata meglio. La protesta formale è questa. Che cosa, cara Veronica, è la porto a nome di Oscar Giannino, che prima era qui in studio, ti ha guardato, ti ha salutato. Sì, tu l'hai salutato, hai fatto quella. Grandi gesti. Finisce invece? Fa. Oh, ieri a Roma, sono andato fino a Roma, manco uno straccio di abbraccio e di bacino. Ecco. Adesso oltretutto diventerà anche che sono fredda e algida. Fredda io, e algida. Algida e fredda. Veronica io. Gentili. L'algida allora, Veronica. Allora io Gentili. Nego e smentisco tutto e adesso chiamerò a testimoni tutti gli esponenti qui della redazione no, romana aspetta, per vedere. Che così creiamo crisi. Una crisi, no, diplomatica. Crisi diplomatica. Vedremo e vedremo se questa è realtà o menzogna. Allora dai, 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, oppure Veronica, mandateci i vostri audio. Dove potranno mai mandarli? Ah, al 349-238-6666. Brava. Hai allora, guarda, nota come io, stupendoti, voglio passare sotto silenzio, perché merita solo il silenzio, la notizia del mancato taglio ai vitalizi che non entrano in manovra. D'altro si sapeva già che la riforma Richetti non sarebbe arrivata. Ma in porto, soprattutto sotto silenzio, il silenzio della... sennò poi ti danno del populista, quindi... Ecco, ma soprattutto tu che hai portato avanti questa battaglia, no, quando ancora non era così battaglia. Celebre, oggi ma sarebbe no. Banale parlarne, no? Sì, infatti. Ma niente, del resto niente. Hai mai pensato che potesse andare altrimenti anche per un solo istante? Ma no, infatti non c'è il taglio dei vitalizi, come zitti, se no ti danno del populismo. 13.000 euro netti no. Al mese. Sì, come questo è il nostro De Luca, governatore. lo sento il governatore che è tornato. Niente, non parliamo di questo, niente, i vitalizi no. È meglio trascurarlo, io penso che meglio tu voglia parlarmi delle foglioline nel simbolo di Liberi uguale di Grasso, vero? Guarda, sì, il dibattito sulle foglioline del simbolo che simboleggerebbero le donne. Ma tu ti rendi conto dove siamo arrivati? Eh sì, abbastanza. Che il livello della polemica verte attorno alle foglioline, perché siamo le donne sono considerate foglioline. Delle foglioline, come vi permettete? Poi uno dice che finisce in burletta. Tra l'altro quel disgraziato non ha nemmeno detto niente di tutto questo. No, è chiaro. Ha detto semplicemente: abbiamo messo le foglioline che rimandano un po' ad una E per mettere anche libere. Rifarsi anche alle donne. Cioè libere e belle, quindi adesso Libere, belle, libere magre uguale. Magre perché magre come foglioline anche, sì, no? Quindi sempre, ecco. Quindi questo è stato il livello della polemica sul tema. Sì, la politica, ci attende una bella campagna elettorale. Però sarà bello, facciamoci delle belle feste di Natale. Esatto. Teniamocele strettissime quest'anno. Esatto. Alle 9:12 minuti invece noi vogliamo parlare con i primi due funamboli che sono già in diretta con noi di... tu hai visto il film Minority Report? Yes, baby. Era quello con Tom Cruise. Of course. In cui si potevano prevenire i crimini. Era un film di fantascienza. L'hai visto in lingua, no? Tu che sei bilingue, no, vero? No, no, assolutamente. Era un film di fantascienza. Non parliamo di questo in Minority Report. Però la possibilità di prevedere qualche reato è già una realtà. Ed è una realtà utilizzata da varie questure, da varie forze dell'ordine. Perché? Come cambia il mondo con la possibilità di raccogliere i dati, metterli insieme e quindi immaginare cosa accadrà, predire cosa accadrà. E di questo parliamo all'inizio. Allora, ieri il Messaggero tra l'altro dedicava una pagina alla vicenda della Questura di Milano, dove c'è un assistente capo di polizia, Mario Venturi, che applica un sistema software di polizia predittiva. Questo sistema si chiama Keycrime. Ma ce ne sono vari di questi sistemi. Per esempio, noi salutiamo un professore che è uno statistico, Giuseppe Espa, che buongiorno, è vice direttore del progetto e-security all'Università di Trento e è esperto proprio di tecniche di indagine applicate al web nel settore della criminalità e è stato messo a punto un sistema proprio, diciamolo così, per non siamo così ottimisti, ma comunque prevedere in anticipo la possibilità che ci possano essere degli atti criminali in alcune zone specifiche della città. Scombriamo il campo dal film che avete citato, altrimenti non consentono. Altrimenti non ci sarebbero più reati, e così purtroppo non è. Non si sente Tom Cruise, professore, ce lo dica subito. No, assolutamente no, per carità, né come capacità né tantomeno come bellezza, insomma. No, il nostro è uno strumento ICT per la raccolta e la gestione dei dati e la modellazione degli stessi, che ha per scopo quello di migliorare le attività di gestione della sicurezza urbana e della prevenzione della criminalità e dei fenomeni di devianza nelle città. E ci faccia capire tecnicamente come si può pensare di prevenire, insomma. Ma più che altro come funziona? Cioè, che dati raccogliete? Da che cosa li prendete? Come allora, li accorpate? In questo sistema confluiscono informazioni a diversa risoluzione spaziale e temporale e sono di diversa natura e di diversa tipologia. Raccogliamo dati di contesto, per esempio condizioni socio-economiche di subaree del comune oggetto di interesse della provincia. Raccogliamo dati di smart city, quindi condizioni atmosferiche, secondo l'antico adagio che quando il tempo è brutto la gente sta in casa e non subisce il furto in appartamento, per esempio. Dati sul traffico, dati sull'illuminazione, sulla presenza di telecamere lungo la rete stradale, dati di presenza di sportelli bancari, quindi la localizzazione geografica di questi sportelli, dei negozi, delle attività commerciali, eccetera. Poi affianchiamo a queste informazioni i dati che raccogliamo attraverso le indagini di vittimizzazione che conduciamo noi. Ne abbiamo, nello specifico del progetto che abbiamo sviluppato a Trento, eseguito 4 round in cui raccogliamo informazioni sulla percezione dei cittadini circa la percezione, appunto, il senso di insicurezza di chi abita nello spazio urbano. Affianchiamo a questi dei dati sui fenomeni di disordine urbano, fisico e sociale, graffiti sui muri, rifiuti abbandonati, edifici in cattive condizioni, presenza di tossicodipendenti, vagabondi, prostitute e in più i dati chiave, perché questi nostri modelli predittivi funzionino, sono quelli in serie storica e in serie spaziale, quindi nello spazio e nel tempo, sui reati che intendiamo modellare, quindi Per capire, io parlo in maniera un po' più meno cattedratica, professore, perché sennò ci capiscono per farci capire da tutti. Incrociando tutti questi dati, si può predire la probabilità statistica, ovviamente non è una certezza, ma la probabilità statistica che ci possa essere un crimine anche in una tale via di una tale città, in una tale ora. Ecco, diciamo che si possono costruire delle zone di probabilità che avvenga un certo delitto. Ma di che percentuali parliamo, professore? Cioè, qual è la possibilità tangibile, la probabilità di capire dove e come avverrà un delitto? Allora, noi a Trento abbiamo lavorato a livello geografico molto fine, quindi per circoscrizioni. La città di Trento è una città di dimensioni contenute, le circoscrizioni erano 12. E dagli esperimenti e dalle simulazioni che abbiamo fatto, i nostri modelli ci hanno dato degli ottimi riscontri circa alcune tipologie di reato particolarmente antipatiche per i cittadini, per esempio i furti in appartamento. No, ma è interessante perché i furti in auto. Perché quindi, guardi, per esempio, non è una novità. Per esempio, leggevo che in America si utilizzano questi sistemi. Alcuni sono accusati anche di favorire la discriminazione razziale perché si fanno delle previsioni. Lì, ovviamente, la componente etnica è anche molto forte in alcuni quartieri, quindi si rischia quanto il pregiudizio possa condizionare. Però la polizia americana lo utilizza, varie polizie italiane adesso cominciano a utilizzare sempre più questi metodi. Ripeto, non è fantascienza. Non è completamente fantascienza. La nostra esperienza è stata assolutamente positiva. Tanto è vero che questa esperienza, che era un progetto al quale hanno partecipato l'Università di Trento, il Comune di Trento, la Questura di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, che è un centro di ricerca qui in Trentino. E questa idea è confluita in una start-up universitaria, quindi in un'impresa dell'università che si ripropone di esportare questa esperienza presso sindaci e questori in tutto il regno. No, ma perché anche a Milano dicono che alcuni reati sarebbero stati abbattuti l'80%, o meglio previsti, perché il criminale in genere ripercorre le stesse modalità di crimine. Quello che conosciamo tendenzialmente, giusto appunto per restare ai film americani, no? Predire il modus operandi di solito con i serial killer succede nell'immaginario collettivo, però vale anche per un reato, soprattutto se è opera di una stessa mano, suppongo, no? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Noi forniamo queste diciamo mappe di futura concentrazione nello spazio e nel tempo per alcune tipologie di reato ai decisori, ai decisori politici, alle forze di polizia. E loro possono applicarlo. Noi forniamo, assistono le loro decisioni. Allora, noi abbiamo anche chiamato un altro ospite che ha ascoltato probabilmente con attenzione quelle che sono queste probabilità statistiche di predire i crimini. Auspicandosi perché... che questo software sia molto efficace. Esatto, perché lui ha una situazione molto molto complicata. Si tratta di Luigi Michelini, buongiorno. Buongiorno. Lei è titolare di una stazione di servizio a Bentivoglio, provincia di Bologna. Esatto. In 4 anni ha subito quanti furti? Ma guarda, adesso in 4 anni non le so dire perché bene o male abbiamo perso il conto. Io sono 20 anni sulla zona e avremo subito 15-16 furti. 15-16 furti, ma di che modalità, di che tipo? Ma di notte, perché la nostra, noi è situato in una zona isolata, ecco, il distributore. Normalmente colpiscono di notte. Di notte. Non so, qui voglio dire, c'è poco da applicare statistiche. Evidentemente l'esercizio commerciale del signor Michelini è talmente preso di mira. Ma signor Michelini, per esempio, introdurre il bancomat non è servito a niente, cioè non hanno desistito neanche. Noi veramente qualche anno fa hanno speronato con un trattore la colonnina del self-service. Fortunatamente un cliente è passato, ha avvisato i carabinieri e sono arrivati, però ormai avevano già distrutto tutto, ecco. Non sono riusciti ad aprirlo. Cioè anche quello non è servito, nel senso. Si ingegnano addirittura con un trattore. Dopo questo ho disattivato, ho attivato solo il banco la notte. Solo il banco. E così almeno la situazione si è placata. Si è placata per quanto riguarda il banco, ma però nel resto dell'area hanno normalmente una o due volte all'anno, vicino alle festività o in estate, sì, colpiscono alle 3 di notte, 2:30, 3 di notte. Naturalmente, essendo una zona isolata, questo volevo capire, il suo distributore è in un punto dove è semplice agire e intervenire. Esatto, sì, sì, sì. Purtroppo CB. Sì. Ma ecco, io volevo chiedere al professor Espa, ma con il nostro software di cui si parlava, in un caso come questo non è possibile agire in alcun modo? Il nostro amico ha già sviluppato lui, il nostro amico Emiliano ha già sviluppato lui il modello predittivo, se avete sentito quello che ci ha detto, ci ha parlato della vulnerabilità. Sì, ma lì più che il modello predittivo, voglio dire, è talmente... diciamo che c'è poco da predire. Esatto, prevede sulla base dello storico e sa già quali sono i momenti, le festività, conosce la vulnerabilità di dove è localizzato il suo distributore, e quindi gli bisogna semplicemente vigilare. A un livello così fine, cioè a un livello così micro, è difficile prevedere, è difficile fornire una probabilità che lì succeda di nuovo quell'evento delittuoso, insomma. Quindi è più semplice parlare a zone, dice. Noi siamo a un livello geografico un po' meno fine del singolo punto. Sì. No, ma questo è chiaro, cioè uno può vedere alcune zone, non certo il singolo punto. Però voglio dire, anche se Michelini il singolo punto. Il buon senso dell'amico che avete intervistato ha portato allo sviluppo di un modello, perché lui ci ha descritto esattamente questo. Ho capito, sì, lo vive quotidianamente sulla propria pelle, è anche difficile, cioè non accorgersi dopo che arrivano non so quanti furti in qualsiasi giorno dell'anno. Esattamente, quella è una zona che va evidentemente vigilata e pattugliata, è un problema. Però Michelini, qual è la situazione? Cioè, perché lei si sente, cos'è, abbandonato? Cioè, uno dice, ma come, io ho un distributore lì, è talmente un bersaglio evidente, nessuno riesce a fare nulla dal punto di vista della protezione? Ma non saprei cosa suggerire, ecco, perché le autorità sono presenti, quando scatta l'allarme io avviso, loro arrivano. Però loro in un quarto d'ora, 20 minuti fanno tutto e vanno via. Poi si inoltrano nella campagna a piedi e lì le autorità con i mezzi fanno fatica. Abbiamo avuto sostegno dai carabinieri, sono presenti, non c'è niente da dire per quello. Però anche loro, quando li prendono, vengono sbeffeggiati, perché dopo non finiscono di fare il rapporto e dalla porta di dietro vanno fuori di nuovo i ladri. Certo. Questo però è uno degli aspetti interessanti invece di questo software, perché in realtà uno degli aspetti è che se viene... Software. No, perché se viene se viene preso qualcuno che ha commesso innumerevoli reati, quindi una volta che lo prendi per l'ultimo, ma sei in grado di ricostruire che ha commesso anche reati precedenti, teoricamente le pene si allungano. Questo mi sembrava di avere vinto e fosse uno dei vantaggi in un paese normale. Ma sì, ma dove li metto? Con lo svuota carceri li mettono fuori comunque. In un paese normale è così. No, su questo quello che serve, servono delle pene, e dare ai carabinieri la polizia o qualsiasi organo che possa operare sul territorio di dargli la possibilità di intervenire in modo deciso, e non che dopo magari gli danno un ceffone, una sberla. No, ma guarda, i carabinieri e la polizia intervengono anche in modo deciso, è un problema di leggi, se poi dopo... Che dopo anche loro come fanno? È un problema, aspetti Michelini, è un problema di leggi, ma non neanche dei giudici che si sognano di applicare delle leggi loro, applicano le leggi dello Stato che sono approvate dal Parlamento, cioè non è tutto un sistema che si tiene, cioè non è che... il poliziotto e i carabinieri li lascia andare o il giudice li lascia andare perché si svegliano la mattina col piede sinistro e decidono così. No, però questo aspetto è un sistema che è anche legale, è che... anche uno degli aspetti di Key Crime, Alessandro, che non è da sottovalutare, cioè l'idea che più reati possano essere messi in relazione e quindi poi al di là delle buone condotte e del fatto che si accorcino a prescindere, ma si viene condannati per più tempo se si ha commesso più reati, ma e questo viene messo in relazione. Ma questo dovrebbe essere provato. Normale se uno ha la fedina penale lunga, anche nel momento, anche, no, se, chiaro, anche senza Key Crime, se viene preso 10 volte, ma se invece io le 3 volte precedenti non riesco a ricostruire quel delitto l'hai commesso tu, è chiaro che la tua pena sarà più breve e uscirei prima. Questo è un po' il senso, per cui dovrebbe essere benefico anche in quest'ottica. Non so, vediamo, professor Espa, da questo punto di vista voi intervenite, cioè sulla questione di l'aiutare a capire la recidività delle persone che vengono fermate oppure no? Cioè... Nella fattispecie del progetto che abbiamo sviluppato, no, perché noi abbiamo costruito degli strumenti che sono, diciamo, di prevenzione, sì. Indicare un incremento della probabilità che avvenga un'azione delittuosa in una determinata area suggerisce ad esempio un intervento di maggiore vigilanza che può essere un deterrente o per esempio l'impianto delle telecamere. No, non abbiamo previsto informazioni di raccolta di questo tipo, di analisi di questo tipo, ma sono facilmente implementabili. Nel senso che il sistema si alimenta con i dati di polizia e quindi è piuttosto semplice sapere se una persona ha commesso più di un reato. È chiaro, va bene, noi vi ringraziamo professor Giuseppe Espa e Luigi Michelini, al quale non abbiamo chiesto se ha mai pensato di abbandonare tutto questo tipo di attività. No, lei insiste e persiste con questa attività. Ormai uno deve vivere. Certo, questo sì, però no. Anche in serenità. L'unica cosa che posso dire è che purtroppo, fortunatamente, di giorno, quando noi non ci siamo, quando noi ci siamo, non da presenti, nulla. Non sono venuti. No, evidentemente, sì, evidentemente è una zona talmente, come dire, che fa gola al crimine, perché è talmente isolata. E non lo so, forse si passano a questo punto anche la voce. O forse ci vorrebbe una pattuglia che facesse proprio la notte dal distributore. Sì. Comunque, la ringraziamo. C'è Giuseppe dalla in provincia di Roma. In bocca al lupo per le feste di Natale, più che altro. Buongiorno. Che abbiamo capito che è periodo critico. Sì. Giuseppe dalla provincia di Roma. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Giuseppe Castellucci, responsabile marketing della Secom SRL di Pomezia. Sì. Molto interessante questo colloquio di questa mattina, in quanto noi siamo una società che lavora e collabora da 34 anni con le forze di polizia italiane. Sì. Sono felice di questo diciamo, argomento, in quanto noi stiamo facendo una vera e propria rivoluzione nel settore. Siamo una società che ha sviluppato una tecnologia innovativa, tra l'altro brevettata, per l'acquisizione e la gestione dei documenti di identità. In pratica, come si compone questa rivoluzione? Noi andiamo nel controllo del documento di identità, attività molto importante, determinante, anche a contrasto del problema dei foreign fighters. Quindi oggi si sta parlando di analisi predittiva, benissimo. Noi questa analisi predittiva la stiamo portando sul campo, dando degli strumenti molto efficaci alle forze dell'ordine, ma sul campo, quindi all'operatore medio, al poliziotto medio, in maniera tale da controllare vuoi diciamo, l'autenticità del documento, quindi la patente o piuttosto il libretto di circolazione, ma poi tutte queste informazioni, un po' come stava raccontando il professore, vengono gestite, possono essere gestite attraverso un server, quindi un algoritmo di business intelligence, proprio per dare un indice di score, diciamo uno score di rischio relativo al soggetto fermato. No, certo, quindi voglio dire, c'è questa idea che i dati, che sono, siamo nella società dei dati, sono sempre più importanti. Non sapevo di questa. Ovviamente è chiaro, e Giuseppe ce lo potrà confermare, ma non è che così si previene, non è che così si fermano i rischi, però si fa una probabilità statistica per cercare di prevenirli. Poi ovviamente poi c'è l'aspetto collaterale che conosciamo, no? I big data, e quindi il fatto che la privacy va riducendosi, che i dati ormai sono un po' po' di dominio pubblico, e questa è una delle polemiche che leggevo attorno a questo software, ma che c'è un po' in generale su tutto ciò che raccogliere informazioni. Su questo in America ci hanno fatto una battaglia dopo l'11 settembre campale. Io ritengo che di fronte a una sicurezza comune e collettiva si possa anche rinunciare a un pizzico di privacy. Di chiaro, le polemiche vertono attorno al fatto che le grandi multinazionali, coloro, no, appunto, i grandi giganti del web che noi utilizziamo quotidianamente, hanno tutto ciò che ci riguarda. Ma e sono in grado già. Stai come su Facebook, stai su Instagram, esatto, stai su Twitter. Questo intendo, esattamente come creare un profilo, no, di marketing ad personam, per cui ti propongo ciò che tu vuoi, allo stesso modo ne ho i benefici con un software come questo. Sono i pro e i contro. Io dico, se serve a stare un pochino più sicuri, che poi non dà la certezza e la sicurezza al 100%, bene, è chiaro che tutto ha una controindicazione, come assumere un farmaco, non si può scappare da questo. Va bene, dai, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi avremo ospite Luis Durwalder, sai chi è? Ex governatore, ex provincia di Bolzano. Volevi spaventarmi dicendo il cognome? Guarda che non mi hai fatto nessuna paura. Perché Durwalder, insieme ad altri consiglieri della provincia di Bolzano, ha chiesto la doppia cittadinanza. Vorrebbe poter essere anche austriaco. Appena lui si presenta austriaco, dicendoti il cognome, tu gli dici il nome del vulcano islandese. No. E così fate il paio, parra. Capito? Pari e patta. Dai, andiamo in pubblicità, tra poco. I funamboli. Trento è una bomboniera, è piccolina, c'è pochissima immigrazione. Trento è bello come esperimento, ma è come fare, come sconfiggere la peste su una capsula di Petri. È vero, ma bisogna applicarlo nelle grandi comunità. Ma le foglioline di Liberi Uguali, quelle del simbolo, sono foglioline di fico? Lo sappiamo, non introduciamo quest'ulteriore questione. Questo quesito non mi lascia così. Ricordiamo che è il logo di Liberi Uguali, che c'è queste foglioline che traducono. Non è il logo, c'è il qualche logo, fogliolina simbolo accanto alla E. Non è che tutto il logo sono, no, le foglioline. No, dico certo, ma stiamo parlando di questo logo, nel quale appunto ci sono queste foglioline. Tra l'altro qualcuno ha detto rubate dal simbolo di Emergency. Effettivamente è abbastanza simile la E di Emergency della mia amica Cecilia Strada e le foglioline. Quindi stai dicendo che anche gli Strada pensano che le donne siano tutte delle foglioline? No, vuol dire questo? Non lo so, guarda, mi sono già perso. Però vogliamo salutare l'ex presidente della provincia autonoma di Bolzano, Luis Durwalder. È caduta la linea, ma adesso lo recuperiamo. lo abbiamo chiamato perché lui, insieme ad altri consiglieri provinciali, hanno scritto al governo di Vienna per avere l'opportunità di avere la doppia cittadinanza austriaca e italiana. Hanno inviato una lettera al cancelliere austriaco Impector e Sebastian Kurz, al leader dell'FPÖ Strache, chiedendo appunto questo. Luis Durwalder, buongiorno, l'abbiamo recuperata, eccoci qua. Buongiorno, che voce tonituante. Com'è squillante. Durwalder, come mai vuole insieme ad altri l'opportunità della doppia cittadinanza? Ma è una questione un po' personale, nel senso, noi vorremmo che l'Austria dia la stessa cittadinanza senza perdere l'altra, come ha fatto l'Italia con i nostri concittadini che vivono in Slovenia o in Croazia. Loro sono cittadini sloveni e croati e hanno anche la cittadinanza italiana. Sì. E noi diciamo, se l'ha fatto l'Italia, anche l'Austria faccia la stessa cosa. Sì, però l'argomento è un po' delicato, sa, quando si parla di quelle zone geografiche, perché viene subito a dire si sente austriaco lei. Sì, la questione ha questa, è questa. Ma anche per un croato, diciamo, che vive adesso in Croazia, non si può dire la stessa cosa. Anche lì è così, è solo una questione storica. Noi diciamo, i nostri padri o nonni erano una volta cittadini austriaci e per questo motivo non vogliamo perdere la cittadinanza italiana, però avere o riavere anche quella austriaca. Ma noi voi sappiamo, vi sentite italiani oppure no? Cioè, se per voi fosse possibile, vi riammettereste mi scusi, finisco la domanda così. Noi abbiamo un passaporto italiano come lo ha lei, no? E sì, non abbiamo nessuna intenzione di fare una scissione o di fare una questione politica. Questo è solo una questione culturale e storica. Praticamente ha preso inizio proprio da un fatto della Repubblica Italiana che ha concesso la stessa cosa che noi chiediamo dall'Austria. E l'Italia ha dato perfino un certo numero di rappresentanti all'interno del Parlamento. Sì. All'interno del Parlamento italiano ci sono delle persone che hanno la residenza in Argentina o altrove in tutto il mondo. Sì, insomma, diciamo, Durvalde, la sua, ci tiene a dire, non è una spinta scissionista come noi immaginiamo, sempre per esempio la passionaria Iva Klotz, che non fa parte del suo partito, che invece dice io proprio mi sento austriaca, anzi non mi sento italiana. Lei non la pone su questo piano. Qui vorrei chiarire una cosa. Sì. Sicuramente tra coloro che hanno firmato e che hanno richiesto, diciamo, questa doppia cittadinanza, ci sono quelli che vorrebbero fare un passo in direzione della scissione. Sì, sì, sì, la Klotz e anche qualche un'altra dicono questo sarebbe eventualmente il primo passo per una scissione. Noi e i miei amici dicono non parliamo neanche della scissione, per noi questa doppia cittadinanza è un passo verso la cittadinanza europea, perché prima o poi deve venire la cittadinanza europea. E io sono convinto, almeno se la sua voce non inganna, lei sicuramente è ancora giovane e per questo motivo avrà ancora la cittadinanza europea. Io purtroppo no, perché sono troppo anziano, no? Certo. Si riferiva a Veronica Gentili, Milan, forse. Che è giovane, cioè, no, è più giovane. Infatti, è più forse giovane. Io, Milan, non credo che la vedrà, ma le volevo chiedere, mi scusi, in assoluto voi vi sentite più altoatesini o più inteso come austriaci o italiani? Senta, una volta ero col Presidente della Repubblica a Castelrotto, nella sua casa dove passava le ferie. Ha invitato un gran numero di personaggi, generali, commissari, eccetera, eccetera. Allora lui mi ha posto, ha detto, senta Durvalda, lei cosa si sente? Si sente italiano, si sente austriaco? Allora io ho detto, io sono appartenente alla minoranza austriaca che vive in Italia, ho il passaporto italiano e sono cittadino dell'Europa. Sì. Allora lui ha detto complimenti, anch'io mi sento così, naturalmente non appartenente No, ma è chiaro, ma infatti è questo, essere questo cittadino dell'Europa che mi fa pensare che sia un po', come dire, non è un po' guardare al passato, vedere questa idea della nazionalità, del passaporto austriaco. Lo dice anche lei, è cittadino dell'Europa, che le frega di avere il passaporto anche austriaco? Io sicuramente farei la domanda di prendere la doppia cittadinanza perché sempre, diciamo, potrebbe essere almeno un fatto storico, eccetera. Io so, diciamo, che posso vivere anche senza, però sì, d'altra parte non guardiamo indietro se guardiamo verso l'Europa. E io dico, diciamo, già andare oltre i confini è un passo verso l'Europa. E io sono convinto che prima o poi tutti gli appartenenti a questa Europa avranno un passaporto comune, una rappresentanza, ambasciata, eccetera, comune in tutto il mondo. E a quel punto non servirà più la doppia cittadinanza. Esatto. Ma io le volevo chiedere una cosa: chi maligna sostiene invece che voi vogliate più dei vantaggi fiscali o di altra natura che non per un fatto identitario avere la doppia cittadinanza? No, questo non è vero, diciamo, perché d'altra parte è così che le tasse si pagano lì dove si producono i redditi, no? E per questo motivo non sarebbe nessunissimo vantaggio. L'unica cosa che l'Austria perderebbe è che noi paghiamo le tasse qui in Italia e dall'altra parte noi avremmo il diritto di voto, e questo potrebbe creare certe difficoltà. Questo potrebbe creare difficoltà, e perciò dico, come diciamo in detto tedesco, non è ancora manciato tutto. Vuol dire che adesso incominciano un po', diciamo, i tentativi di trovare una soluzione che possa accontentare gli uni e gli altri, però dico, diciamo che passerà ancora un po' d'acqua. Però intanto prima di risolvere questo problema. La ringraziamo per avercelo detto in italiano, perché sennò sarebbe stato il panico qui. Nel salutarla, Durwalder ha visto, io non ho detto niente, ma è saltato il taglio ai vitalizi a Roma. E sappiamo che c'è una polemica sui vitalizi mai sopita, invece sui vitalizi vostri, anche il suo, ma ha visto anche a Roma tanto non li tagliano, quindi tenetevelo bello stretto e chi se ne frega. Dico questo e poi diciamo io sicuramente sono un brutto esempio, diciamo, per coloro che vogliono fare polemica, perché io ho versato contributi per 41 sì? anni. E quanto ha preso? 3.300 al mese sono andato in pensione a 73 anni e prendo attualmente una pensione di 2.800. Il mio segretario che ha collaborato con me per 35 anni prende molto di più di me, sia come buona uscita come anche come pensione. Esatto, c'è stata quella famosa buona uscita, no? Di bella cospicua, credo, di centinaia di migliaia di euro. Io ho preso 469.000 e dico, diciamo, se faccio il calcolo, io ho sempre optato per la vecchia per il vecchio trattamento. Sì. E io sarei subito d'accordo di applicare lo stesso criterio che viene applicato per i lavoratori, perché certo, se io faccio riferimento a ciò che ho versato prenderei una pensione molto più alta. Va bene, noi la ringraziamo, Durwalder, grazie per essere stato con noi. Grazie. Luis Durwalder, ex presidente della provincia autonoma di Bolzano e adesso consigliere. E dobbiamo andare al traffico, cara Veronica. Tu non la vuoi la cittadinanza austriaca? No, io mi accontento di quella di Sesto San Giovanni e milanese, dai, d'adozione, dai. Il traffico. I funamboli. Allora, sono le 9:49 minuti e dobbiamo regalare 4 biglietti ora per Platone. Buongiorno funamboli, buongiorno. Ciao Leonardo. Ciao, buongiorno. Allora, intanto, dopo diciamo i vincitori di ieri, per oggi vi diamo, come al solito, una notizia. Leonardo ha detto questa, diamo questa, mi ha incuriosito, la flat tax. Al 25%. Ma chissà se si avvererà mai, perché ciclicamente questa flat tax torna fuori. Sì, l'idea di mettere un'aliquota fissa al 25%. Cambia cifra la flat tax, ogni tanto è al 15, ogni tanto è al 25. Vabbè, diciamo, adesso sbizzarritevi. Adesso ci sono i saldi, no? Fate un bel titolo con una tassa unica, flat tax. Flat cosa vuol dire? Piatto. Tassa piatta. Che vuoi? Livellata, omologata, uguale per tutti. Allora dovete mandarci un bel titolo sulla flat tax, al 25%. I migliori titoli vinceranno due biglietti. Dovete mandarli al 349-238-6666. Due persone vinceranno 4 biglietti, venite in coppia. Alessandro, tu non ti vedi, però io ti vedo. Che succede? Il tuo ciuffo, io l'ho già postato in qualunque luogo. No, non puoi sapere. Leonardo, non puoi sapere, neanche le rockstar ai tempi d'oro. Ricordiamo due biglietti per Platone, che sarà domenica al Teatro Manzoni, qui a Milano, alle ore 20:45. Ospite Giuseppe Cruciani questa volta. Signori! Cruciani, che parlerà anche di vegani, Cruciani. Ma sarà critico, vegano. Cruciani? Sarà critico come MDP. Però avete visto che finalmente, insomma, il ponte è finito, sono rientrati anche gli ultimi ritardatari. Si torna a casa. Siamo quasi Natale, città piena di luci, per strada, dentro alle case, luci colorate, diverse dalle solite luci gialle che vedi dalla strada dentro le case. Perché quelle luci gialle che ci sono dentro le case quando non è Natale e non ci sono altre luci, mi danno una strana sensazione di inquietudine, di vita anche senza illusioni, un po' di amarezza. A 50 anni per trovare le tue illusioni, io, 50 anni, devi scavare sotto le bollette, ai vestiti, alle automobili, alle ex fidanzate, alle idee cadute, alle tappezzerie che ogni giorno ti attacchi addosso per essere sempre all'altezza della situazione, quella di un cittadino politicamente moderato, moderatamente consumista, consumisticamente perfetto. Perfetto per andare dallo psichiatra, e il fatto di non sapere più cosa c'è sotto a quelle tappezzerie mi crea ansia. Quando viaggio in metropolitano l'ansia, perché ho paura di non scendere la fermata giusta, e allora chiedo in continuazione: scende la prossima. Alla fine, a forza di chiedere, mi dimentico io di scendere. Quando viaggio in treno ho l'ansia, perché temo che se ho bisogno il bagno sia fuori servizio, e quando funziona sono così contento che per poterlo utilizzare prendo apposta un lassativo. Quando scrivo al computer ho l'ansia di perdere tutti i dati, allora salvo in continuazione. Ogni parola la salvo e la metto su una chiavetta. Ogni parola su una chiavetta diversa. Ormai a casa un armadio stagionale pieno di chiavette, ma ho perso la chiavetta per aprire l'armadio. La mela morsicata dall'Apple mi mette ansia. Io compro un computer nuovo e c'è già la mela morsicata. Ma perché? Io col computer nuovo voglio una bella mela intera, non morsicata. Per strada, quando è pieno di gente, mi agito perché temo di essere travolto. Però quando non c'è nessuno, mi agito lo stesso perché sono solo e non saprei come difendermi da uno scippatore, da un malintenzionato o da un testimone di Geova. O da un testimone di Geova malintenzionato che vuole scipparmi. La città mi mette ansia perché promette con le sue luci, con i suoi manifesti pieni di modelle. Poi ti accorgi che quelle luci sono fredde e quelle modelle senza cerone sono piccole, fragili. E a te che le guardi su quei manifesti enormi resta solo un po' di solitudine. Lo so che per stare meglio dovrei pensare meno, basta non farsi problemi come fanno in tanti. Se ho bisogno di parcheggiare ed è tutto pieno, niente panico, niente ansia. Basta fiondarsi nel parcheggio disabili, poi quando scendo dalla macchina mi basta fingere di zoppicare. Se di notte vedo qualcuno che dorme su un cartone, mi basta pensare che è lì perché la mattina dopo cominciano i saldi e vuole essere il primo. Se qualcuno per strada mi chiede qualcosa per mangiare, mi basta dire: figliolo, non vado in giro con le posate. Pensare meno e riempirsi la casa di roba. Fin da bambino ho cominciato a accumulare roba per placare tutte le paure. Hai paura dell'iniezione? Tieni un bel giocattolino, Leonardo, vedrai che la paura passerà. E mentre guardavo il giocattolino, mio padre, zac, mi faceva l'iniezione e mi fregava, ma poi il culo bruciava lo stesso. E tutta quella roba dopo un po' diventa inutile, perché per le altre iniezioni, per le altre paure, c'era altra roba nuova da comprare per riempire l'anima come il carrello di un centro commerciale. Vivere nel migliore dei mondi possibili, con ancora un sogno per il futuro, per esempio farsi un lifting, avere un figlio che interpreta una pubblicità, avere una villetta al mare vicino a quella magari di Bruno Vespa. Così, se succede una tragedia, lui è già lì, pronto, col plastico. Non so perché, ma a me questa vita meravigliosa, a volte, a me sembra mostruosa. Per fortuna ogni tanto c'è il ponte. Ecco il nostro Leonardo Manera. Allora. Che momenti sospesi. Vedi, abbiamo dato un tema troppo complicato. La gente non sa fare i titoli. Però qui ne è arrivato uno che hai mandato, perdonami, notevole. Sì, sì, sì. Questo qui temo che se non lo decidete voi di non premiarlo, mi tocca entrare a gamba tesa. Forse ho capito, no? Ho capito. Cos'è? Flat tax, liberi uguali? Questo è tutto, forza. Questo è ragazzi. Tutto. Allora, tutto. Dovete mandarci un bel titolo sulla flat tax, dicendo anche come vi chiamate e da dove no. La città, ma non è difficile, sono tre cose che dovete scrivere. No, scrivete anche polemico no, sterilmente. Ma poi diventi tutto rosso con quel ciuffo in testa. Allora, per favore, fategli dei titoli sulla flat tax, la tassa sì. uguale per tutti, la tassa omologata, la tassa sì. al 15%. E dove li mandate, Salvini, Veronica? Quella che Salvini e Berlusconi profetizzano, la mandate tutto, so, pur di non farti arrabbiare, al 349-238-6666 e ci scrivete, mi raccomando, come vi chiamate e da dove scrivete, perché altrimenti lui gli viene un coccolone, per favore. E tra l'altro ieri, con i titoli che non ricordo, hanno vinto Cecilia, ha vinto due biglietti e l'altro non mi ricordo neanche. Un disastro oggi, potevi dire che non ti sentivi bene. No, hanno vinto Cecilia e adesso state qui finché non c'è l'altro nome dopo il GTG. No, adesso è una polemica sterile. Adesso stiamo qua fino a che non me lo ricordo. Aspetta, fino che ho scritto male. Twittato male. Vincitori di Platone, Cecilia e Giancarlo. Finisce la prima ci ora. Ci vorrai dei dire funamboli. Ovviamente da dove, no? Per favore, ciao. I funamboli. I've got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. Ma vi rendete conto che questo ha i proverbi tedeschi, come diciamo noi in tedesco? Ma dovete togliergli tutto, che si prenda la cittadinanza croata, slovena, dove abita lui, visto che è una cosa comune, visto che lo fanno anche i jugoslavi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma cosa sta dicendo questo? E gli diamo pure uno stipendio. I'm flesh and blood to the bone. Io proporrei di annettere il Sud Tirolo all'Austria, poi vediamo se continuano a fare la bella vita. So just leave me alone. Ma io non ho capito, ma se gli garba tanto l'Austria, ma perché non vanno in Austria invece di stare a rompere le file a noi? Io lo sapevo che andava a finire così l'intervento di Luis Durban. È l'Italia dei campanili, perché tu puoi abitare ovunque, ma c'è sempre qualcosa che non va. Sei in Calabria per una cosa, sei in Bolzano per un'altra. Qual è il problema? Lui è come tantissimi in Alto Adige, si sentono di una minoranza linguistica. Lo sai perfettamente che stai sostenendo l'insostenibile. Ora so che lo devi fare ma non è vero, ma io rispetto assolutamente le culture di tutti. Cioè, Luis Durbander si sente. Il fatto che si ricopra un ruolo politico, austriaco. Non il resto. Nel momento in cui tu ricopri un ruolo politico e lo ricopri in loco, le persone che ti pagano e ti danno uno stipendio ti come si dice a Roma, infatti, ma che davvero? Ma è stato votato sicuramente, no, perché poi lui è dell'SVP, è uno dei partiti, come dire, non più... autonomisti ancora, di quelli che ancora votiamo. Non è di quelli autonomisti, non è appunto Eva Klotz, non è autonomista. Eva Klotz ha passato una vita e passa una vita a dire io sono italiana per sbaglio. Sono di una minoranza austriaca annessa all'Italia e quindi mi batto per tornare in Austria. Non basta il fatto che Eva Klotz la porti ancora più alle estreme conseguenze per farci pensare che invece lui abbia ragione. È evidente che la gente si indisponga perché rappresenta comunque una figura politica qui in Italia. Ma perché? Vuole solo il doppio passaporto? Ha pure detto che non vorrebbe mai la secessione. Ha un atteggiamento che sottende un che disprezzante. Io capisco che le reazioni possano... Ma lui si sente austriaco. Ma se tu ti sentissi francese perché sei al confine e ti sentissi storicamente, culturalmente francese, ma perché dobbiamo disprezzare il fatto che vuoi tornare, aneli a tornare a essere francese come i tuoi nonni? No, ma cioè, tu dire, che dovrebbe, cioè Durbander, che dobbiamo italianizzarlo così a forza? Perfetto, è italiano, ma si sente avanti le sue istanze, ha una tensione verso l'Austria, ma non è indipendentista. Riannessione all'Austria può portarle avanti. Ma non lo vuole, sia la cittadinanza italiana che lo sostiene e che nel sentirlo dibatterne dica ma peraltro meno non male lo vuole. Che abbiamo questo consigliere che porta avanti questo ex governatore. Ma non vuole tornare in Austria, lui non vuole tornare in Austria, lui anzi è uno di quelli che si sente in Italia, però se dice i miei nonni erano austriaci e quindi faccio parte di una minoranza. La domanda l'ho fatta a lui, ma il fatto che si maligni che l'aspetto non sia un aspetto identitario ma che ci siano, come molte volte in tante altre occasioni abbiamo visto e pensato, tutta bisogno, una serie di vantaggi. Secondo me non ne ha bisogno, dici, con tutti i soldi, con la liquidazione da 460.000 euro ha fatto quattro mandati il presidente della provincia di Bolzano. Adesso, hai capito perché le persone si indispongono? Uno dice lavori qua con tutti i benefit che hai avuto dall'Italia, cioè hai anche il coraggio di dire ma non mi sento italiano fino in fondo, dice vabbè vattene a prendere meno Austria. Pensione di mio assistente, no? Poi il populista sono io, il populista sono io, il populista sarei io. Pur di far bastian contrario sei come capace dire? Di far fare la populista a me. C'è da ripassare. Guarda, mi sono messa le foglioline in testa. C'è da ripassare un attimo, come dire, la storia di quella zona geografica che è peculiare. Non è come non è come uno di Siena che dice io voglio andare in Austria. Come dire, è una situazione geografica e storica un po' particolare, per cui c'è una grande minoranza di persone che vogliono, che tendono a tornare a quella che per loro, non per me, è la loro patria. No, smettila. Il nostro Peter Bescapè si è fatto prendere la mano. C'è stato un attimo in cui è partita. Io, per carità, il discorso è chi lo fa, il fatto che sia una figura pubblica e che sia retribuita con i soldi pubblici italiani. Tra l'altro, guarda, questa che cosa può non avere un impatto gradevole sulle persone. E infatti anche a Eva Klotz, che invece lei sì è separatista, hanno imputato proprio questo. Dice, ti sei presa. Ma non è vero, mamma mia, non farmi litigare. Poi sembra che io stia con Eva Klotz. Dice, che rideva, ha fatto tutto il servizio in cui rideva. Dice, io prendo soldi di pensione. Sì, ma io lo... io prendo vitalizia. Ma figurati, ma la conosco bene, l'ho intervistata mille volte e lei ha una posizione molto chiara. Dice, io ho preso i soldi in Italia e ho fatto politica in Italia perché se fossi stata austriaca avrei fatto, che ne so, la casalinga, la mamma, la moglie. Ho fatto tutta la mia battaglia politica per andare per tendere alla secessione all'Austria. Non ce l'ho fatta, ovviamente, e quindi ho fatto politica solo per quello. In Austria non avrei fatto politica neanche un giorno. Io adoro il tuo cinismo pragmatico quando te pare a te, e invece quando decisi che fai il boccalone con quello che ti diceva Klotz, stacco il boccalone. Dai, Marco boccalone. Da Siena, buongiorno. Non è tra i neologismi questo? No, adesso è neologismo, adesso ora ne chiedo. Parliamo. Marco da Siena, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Eccoci. Sì, ho chiamato per... ero molto interessato alla discussione fatta riguardo ai dati raccolti per la criminalità e per la mappatura delle zone a rischio. Questo io ho sentito prima. Sì, esatto, abbiamo parlato. E lo trovo molto utile. Dico una cosa, io sono stato 23 anni carabiniere, ho fatto servizio a Firenze. Sì. E concordo sul fatto che già negli anni 80, primi anni 90, sapevamo delle zone di Firenze che erano altamente a rischio. Per esempio, per furti su auto questa zona, furti in appartamento quell'altra zona, rapine, uffici postali e banche altra zona. Quindi questo tipo di mappatura è utilissimo. Il problema di base però è che, scusate, appena fatto una corsettina, sì. Il problema di base è che quando noi arrestavamo, e arrestiamo ancora, anche se non sono più carabiniere, c'erano individui che avevano sfilze di precedenti penali, e infatti mi rifaccio a quello che ho sentito prima in studio, chiamavamo il magistrato di turno, e nella maggior parte dei casi, proprio perché le normative diceva lasciatelo, tanto non c'è niente da fare, sono molli queste normative, ci dicevano denunciato al piede libero. Quindi il signore, dopo che noi avevamo arrestato, tornava nel giro di pochissime ore fuori e ricommetteva gli stessi reati. No, ma infatti Marco, ma sono due problemi, come dire, sono entrambi attinenti alla stessa tematica, ma sono diversi, ecco, non è che il prevenire il reato, certo lei dice io uno può prevenire il reato, ma poi se le leggi non prevedono, sì, il fatto che uno si faccia il carcere, immagino la frustrazione anche delle forze dell'ordine, certo, che si trovano a lavorare sul territorio e poi ritrovarseli sempre fuori, questi. No, quello sì. Però insomma sono due problemi, assimilabili ma risolvibili separatamente, ecco, non è che uno esclude l'altro. Però dobbiamo presentare un ospite e poi dopo il traffico ci dirà tutto. Queste sono le tematiche che adora Veronica, già proprio non dorme la notte. Oggi siete polemici tutti e due. Ma anch'io le amo perché la lingua italiana è straordinaria. Amiamo schermagliare così, ci piace. Forse anche quella tedesca. Chi lo sa? Forse anche quella tedesca, potrebbe darsi. Ma per esempio tu leggi in tedesco, hai letto tutto Thomas Mann in tedesco, ma no? Io non so il tedesco, quindi perché dovrei farlo? La nostra Elisabetta Fusconi sa il tedesco, quindi lei potrebbe. Però vogliamo salutare Mario Cannella, buongiorno, che è il curatore del dizionario Zingarelli. Buongiorno e benvenuto Cannella. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Perché è un enorme piacere ospitarla, sono lusingata, onorata. Sì, esatto. Siamo a cent'anni dello Zingarelli e lei dopo il traffico, quindi le chiediamo ancora 30 secondi di pazienza, ci deve spiegare tutto, abbiamo curiosità su come nascono i neologismi, come nascono le nuove parole, come si entra nello Zingarelli e come invece non si entra, se sei una parola, perché un vocabolo viene messo e un altro vocabolo perché no? Perché una parola, se c'è la discriminazione delle parole anche? Tra poco ci dice tutto. I funamboli. Eccoci qua allora, Mario Cannella, grazie intanto per la pazienza. Per festeggiare i 100 anni del dizionario Zingarelli, intanto io parto dalla coda. So che state facendo anche un tour e fate un tour nelle scuole italiane. Mi interessa sapere se davvero il livello della lingua italiana tra gli studenti è così degenerato come talvolta si dice, è così Cannella? Beh, naturalmente in questo giro noi non abbiamo potuto fare una verifica del genere. Abbiamo notato che nelle varie scuole ci sono degli alti e bassi, dipende molto anche dagli insegnanti e dalle impostazioni che loro danno. In alcuni casi abbiamo visto una grande preparazione, ragazzi che prendevano appunti, molto interessati, attivi. In altri un atteggiamento più passivo. E secondo lei da cosa dipende questa differenza? Non ho capito. Da cosa dipende questa differenza? C'era un'inchiesta l'altro giorno, diceva che dipende anche dal livello economico soprattutto, non tanto la presenza di extracomunitari o meno, che adesso sono anche molti nelle classi, ma proprio dal livello socio-economico delle varie classi. Sì, questo può essere un motivo, però devo dire che ricordo ai tempi miei, diciamo alcuni anni fa, al liceo classico esistevano ragazzi di livello economico basso, ma non erano affatto i peggiori, anzi alcuni sono diventati chi procuratore della Repubblica, e chi giornalista e così via. Quindi non è così meccanico, dipende da molti fattori. Certamente l'impostazione della scuola e l'impostazione degli insegnanti conta molto. Ma complessivamente, secondo lei, invece, a livello collettivo c'è un impoverimento dell'utilizzo, proprio della padronanza linguistica complessivo della collettività, oppure no? Ma dal nostro punto di osservazione troviamo l'italiano una lingua vitalissima ancora oggi, nel senso che in grado di assorbire, assimilare, come ha fatto già in passato, per esempio con l'alluvione di francesismi tra 700 e 800, di assimilare oggi terminologie, tecnicismi e anche anglicismi che arrivano di continuo, ma riesce in qualche modo ad adattarli alla lingua italiana, cioè i prestiti cosiddetti, cioè gli ingressi integrali di parole straniere, non sono tantissimi, molti sono gli adattamenti e quindi le derivazioni, non so, da reset si resetta, da chattare si chatta, chattare, così via. Questi termini sono entrati. È interessante proprio questo, capire. Ci dica alcuni esempi di alcune parole che sono di uso comune e che sono entrate nello Zingarelli. Di recente, per esempio, abbiamo inserito ciclostazione, che è una parola abbastanza recente, che sono queste stazioni di ricovero e rimessaggio delle biciclette in condivisione, soprattutto nelle grandi città, oppure che sarebbe l'equivalente dei bike sharing, car sharing, no? Quando ci sono i punti in cui si trovano queste macchine, si chiamano proprio ciclostazione e velostazione. Certo. Naturalmente non tutti sono tenuti a saperlo e spesso capita che il vocabolario serve a quello, uno legge la definizione, esatto, ma impara, esattamente, ma per arrivare a quello occorre fare delle verifiche. Io ricordo che quando mi avevano proposto anni fa la parola gattile, che sarebbe il canile per i gatti, sì. Ma quella c'è già, il no? Mio gatto io l'ho preso a gattile, per esempio. No, gattile l'abbiamo inserito un bel po' di anni fa, ma quando me lo proposero, io dissi, ma non esiste. Poi basta fare una verifica seria in Google, per esempio, o nei giornali locali, e si vede che è pieno di gattili, anche nominati in istituzioni, in siti locali, ci eccetera. Spieghi un attimo, per cui la parola fu inserita. Ecco. Attorno a cosa verte la verifica? Nel senso, che cosa deve avere? Come fa ad avere il certificato una parola per capire che può entrare nello Zingarelli? Non mi dica che anche lei va su Google a verificare, sarebbe la fine. Io sono rimasto anche colpito a verificare quanto citato è utilizzata Google. Forse sì, però quanto la gente sia già una parola di uso corrente. Io faccio il purista, sono rimasto un po' anch'io colpito del fatto che lei dice le verifiche su però Google. Se bisogna fare un riscontro nella collettività, ascolti, il purismo è un conto, il rigore è un altro, perché il purismo ha un atteggiamento di chiusura, il rigore è una caratteristica positiva. Allora, non esiste un algoritmo, non esiste nulla di questo, non esiste un criterio semplicemente matematico. I criteri sono certamente, uno, la frequenza, certamente il secondo, la qualità di questa frequenza, e il terzo, la permanenza nel tempo. Sono questi fondamentalmente. Quando dico la qualità della frequenza, intendo dire che in un numero magari di 24.000 pagine di Google bisogna andare a vedere che pagine sono, perché lì una pagina non è uguale a una, questo va ribadito, per usare un'espressione in voga. Ma quindi voi in voga, ma nel senso che un conto è la presenza in una chat di persone che chiacchierano tra loro, e un altro in un sito istituzionale o in un libro. Ecco, per esempio, già la presenza in Google Libri è molto più importante rispetto alla presenza in Google generico, perché c'è stato qualcuno, un editore, che si è impegnato, ha investito e ha pubblicato un libro. Quindi già lì la presenza, e poi fondamentale è andare a vedere anche qui siete interessati anche voi, vedere anche i mass media, i grandi organi di stampa e le grandi radio. Io, per esempio, sono un ascoltatore di Radio 24 e spesso ho avuto stimoli suggerimenti ascoltando le vostre trasmissioni. Interessante. Però non avete quindi un atteggiamento ideologico, diciamo, voi non fate una selezione all'ingresso, guardate sostanzialmente le parole che vengono più utilizzate eventualmente per inserirle. Più utilizzate, ma non sempre, ci sono parole perché non basta appunto il criterio aritmetico, ci sono parole di raro uso. Per esempio abbiamo inserito cosificazione, che è un termine di teologico fondamentalmente, che vuol dire trasformazione in cosa, la cosificazione della persona umana, che è un termine che credo fu usato dal Papa anni fa, che sicuramente non è diffuso. Abbiamo inserito ulissismo, che è la tendenza ad andare oltre ai propri limiti, andare a voler da conoscere Ulisse, fare immagino. Di più, no? Ecco, che certamente non troverà con tante pagine in Google, ma lo troverà nei luoghi del dibattito culturale. Professor Cannella, c'è un termine da due giorni che gira sui giornali, io glielo suggerisco perché do di testa, gelicidio. No, ma è Giano Zingarelli. È terribile. Ma è terribile perché tu fai un accostamento cidio e pensi a chissà cosa, in realtà è logico. È una parola, il cidio da cadere, quindi è come stillicidio, c'è uno stillicidio, c'è un gelicidio. Però ci saranno le parole che uno ama e uno no. Questo è un fatto di gusto personale su cui purtroppo non può tener conto curando lo Zingarelli. La parola è attestata già dal 1320. Non è naturalmente non nel senso non raffinato meteorologico di adesso, tipo del fenomeno dello strato di ghiaccio che si crea, eccetera. Ma come ghiaccio, come gelata, ecco. Ed è una parola attestata da 600-700 anni, quindi non è un neologismo in senso stretto. Anche è stata ritirata fuori adesso, come capita spesso, molte parole stanno in sonno e a un certo punto vengono rilanciate e gli organi di stampa hanno la funzione di diffonderla e portarle a conoscenza di tante persone, cosa che prima non era. Lo stesso vale per termini per medicina o di gastronomia. Infatti io volevo sapere proprio questo anche, no? Ci sono anche tutta una serie di termini, per esempio a livello gastronomico, termini dialettali che sono stati acquisiti nel tempo all'interno dello Zingarelli, vero? Assolutamente, ma il motivo è semplice, ed è quello della globalizzazione e della liberalizzazione dei commerci, nel senso che un tempo quei termini, prendo la parola il PLIN. Sì. Il PLIN piemontese, che è una specie di piccolo raviolo. Ho finto di sapere di cosa parlasse senza averne benché minima idea, ma sì. Il PLIN credo adesso che significhi in piemontese pizzicotto, nel senso che il modo di lavorare la pasta, insomma, dando come un piccolo pizzicotto alla pasta si ricava un piccolo raviolo. Un tempo si andava in Piemonte e si trovava sulla lista, si chiedeva ma che cos'è, curioso, lo voglio ordinare. Adesso si va all'Esselunga o in altro supermercato e li trova, ha capito? Guardi, io professore, per esempio, non l'ho fatto apposta, le giuro che questa cosa però lo vedo adesso, era arrivato il messaggio, cioè provi a chiedere al professore se esiste nello Zingarelli il termine gelicidio. Vede che è da due o tre giorni che la gente si interroga. È una bellissima giustificazione anche per lo ferroviere, cioè non può circolare, c'è un ritardo perché c'è un gelicidio. Allora le persone, caspita, è una cosa grave. Professore, è vero che avete inserito la schiscetta? Che per chi non è di Milano è, come dire, anche il modo per il pranzo, ecco. Più il pranzo o la pietanziera milanese? No, la pietanziera è il termine italiano ufficiale, insomma, cioè il contenitore di metallo che si usava soprattutto i lavoratori, insomma, che andavano in fabbrica per il pasto del mezzogiorno. Perché schisciare, schiacciare. Schiscio vuol dire viene da schiacciare, insomma. I milanesi usano la parola schiscio per uno che se ne sta anche in un angolo. Stai schiscio. Ma c'è anche babbiare dal 2016, ho visto. Sì, ma ci sono tanti termini che entrano nel circuito nazionale. Ah, professore, per concludere, ce ne dica uno proprio, uso io, che invece è un termine che lei fa schifo, che proprio non, prima di entrare allo Zingarelli dovrà passare sul suo corpo. No, questo non, non posso mai dirlo, perché noi siamo, non possiamo avere attitudini. Lei non può avere un gusto personale per cui fa una selezione arbitraria. Non deve trasparire. Qual è uno che ha inserito malvolentieri, esatto, senza essere convinto? Così. Malvolentieri, guardi, sono le parole cacofoniche che suonano male, perché poi a tutte le altre ci si abitua. Noi adesso usiamo la parola vidimare. Ma se lei ci pensa bene, il vidimare, a parte un francesismo definito orribile al tempo, nell'Ottocento, nei vocabolari puristici, da evitare assolutamente. In realtà oggi vidimare è accettato comunemente. Certo. Tra l'altro viene dal latino, perché viene da vidimus, che vuol dire abbiamo visto, e il francese l'ha trasformato in vidimè ed è tornato qui in Italia come vidimare. Ah, l'abbiamo inventato noi francesi, abbiamo dovuto fare un passaggio francese. No, ma io volevo capire solo, like, youtuber, queste parole qui, influencer, sono già entrati? Sì, direi proprio di sì, perché fanno parte della lingua comune, comunemente accettata. Influencer è entrato quest'anno. Ah, sono nuovi. Come si poteva ignorare la Chiara Ferragni? La Chiara Ferragnite, non so, non c'è tra le patologie Chiara Ferragnite, la Ferragnite non c'è. Quello ancora no. Non l'abbiamo inserito. Petaloso, suppongo che ci saranno blogger, fashion blogger, spammare. Sì, inseriamo comunque parole che pensiamo rimarranno nel corso del tempo, per non fare gli errori dei lessicografi di alcuni decenni fa, che siccome lavoravano con le macchine da scrivere inserivano un mucchio di termini relativi. Quindi professore, per esempio, guida caratteri, che abbiamo poi tolto perché insomma non ha lasciato tracce, o altre macchine di questo tipo, quindi stiamo molto attenti. Bisogna seguire l'onda modaiola o di ciò che può essere un fenomeno provvisorio e poi improvvisamente evaporare. Quindi per esempio Petaloso non l'avete messo. Petaloso non l'abbiamo messo per il semplice motivo che se ne è parlato molto, ma si è parlato su Petaloso. Avete fatto bene, bene, bravi, bravi. Senta, ma non c'è nessuna parola di origine africana, insomma, che sia stata inserita, solo inglesi o francesi? No, anche parole tedesche, arabe, cinesi. Tutte le, siamo molto attenti con i francesismi. Quest'anno abbiamo inserito il tedesco Spannung. Che vuol dire la tensione, l'atmosfera tesa. Guardi, professor Cannella, qua noi la richiameremo, nel senso che ogni giorno ci dà ogni volta ci può dare uno spaccato di nuove io di mi nuove sa parole. Che la chiamo tutti i pomeriggi, Veronica Gentili, tra le 4 e le 5 non ho niente da fare per imparare se delle c'è cose. Una cosa proprio che mi affascina, potrei stare ore. Noi la ringraziamo, curatore del dizionario Zingarelli, Mario Cannella. Devo dire che un ascoltatore ha detto che oltre a canile e gattile si potrebbe coniare anche per Dulvalder il luogo in cui metterò l'austrile. Va bene, dai, andiamo a sentire la borsa. Poi torna un nostro amico, il funambolo vero, Andrea Loreni, che ieri ha fatto il funambolo sul Tevere. Ha passeggiato qui sul Tevere, si è fatto da una sponda là. Passeggiato sulle acque. Cammina sulle acque, non te l'avevano detto? Mamma mia, ragazzi, tra poco. Succede anche questo. I funamboli. Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. Perché se vi ricordate potete mandare le vostre polemiche sterili. Per esempio uno ha scritto prima: ma Nera non mi fa ridere, giusto per fare una polemica sterile. Sono d'accordo con lui, devo dire, concordo massimamente. Peraltro non è sterile come polemica. Se davvero è così, caro ascoltatore, faccio sapere che lo cacciamo a calcio. Certo, non è che... subito, chiaramente questa è una polemica fruttuosa, no, quella che si chiama polemica fruttuosa. Ma pensa che bello, è già qua a dire così dormo al mattino. Ancora che devo andare qua la mattina a prendere le scale mobili, arrivare, vedere Milano. Sarebbe veramente... Ma scusa, ma se non vuoi stare qui, ma vai con Durwalder in Austria. Te ne devi andare. Ecco. Bravo, rimettiglielo. No. Torno a vivere a Salò. Te ne devi andare. De Luca, il nostro De Luca. Oh, insomma. Hanno proposto l'Alto Adegexit. No, Alto Adegexit. Allora, dai. Comunque, ecco, questa è una polemica sterile. Non se ne può più con questo tempo pazzo. Ah, ecco, io la polemica sterile. La polemica sterile. Ce n'è un'altra che è venuta in mente. La mia polemica sterile è questa. Cari ascoltatori, cari mezzi dell'informazione, cari amici del traffico che fate i traffici di 7 minuti, cari amici che prendete la macchina e fate 12 ore per andare dal Trentino Alto Adige a Milano e poi lo raccontate sui giornali. Troppi cari amici. Vi do una notizia: d'inverno fa freddo, talvolta nevica e le strade di tanto in tanto sono disagiate. E che cavolo, ragazzi, ma... Ed estate fa caldo, quindi, cari anziani, non andate con il cappotto alle 12 a Ferragosto a fare una passeggiata mangiando l'abbacchio. Si mangia leggero, si beve tanta frutta, si beve acqua e si sta leggeri. Caro, questa non è polemica sterile. Tu vuoi impedirci la lamentazio? Che è uno dei nostri sport principali. Sopporto. La lamentazio tu ce la devi lasciare. Perché noi abbiamo freddo e poi abbiamo caldo e poi abbiamo freddo e poi abbiamo caldo. Ma i servizi del telegiornale d'estate, mi raccomando, si sta a casa nelle ore calde, si mangia leggero, bagnarsi il collo e i polsi con dell'acqua fresca e ci si veste copricapo. E ci si veste senza la lana. No, io metto il cappotto di Astrakhan. Voi giornalisti, con voi giornalisti, di cosa parlereste d'estate se non ci fossero i servizi sul tempo? Avreste i TG vuoti completamente. Resterai senza lavoro se continui così. Di cosa vuoi parlare il 12 agosto se non dei turisti che si fanno il bagno della Fontana di Trevi prima di avere il coccolone per il caldo? Questa per me è una polemica non sterile, una polemica fruttosissima. Ci saranno i mezzi di informazione che non parleranno più di queste cose nel mio mondo perfetto. Io una polemica, ragazzi, sterile anch'io. Quando sarò presidente della Repubblica, no, eccolo, votatemi, italiani. Eccolo lì. Aspetta, la mia polemica sterile è sul fatto di dover obliterare il biglietto anche quando si esce dalla metropolitana. Questa è una cosa che mi fa imbestialire, perché si crea sempre la coda. Quindi tu hai già timbrato in ingresso, loro sono malfidenti e pensano che tu debba, perché non si fidano, pensa che è chiaro, perché un po' se ragione. Sei riuscito a fregarli all'ingresso, magari ce l'hai fatta, dici pure all'uscita. Certo, un po' ha ragione, tanto quelli che non hanno timbrato scavalcano tantissimi. Io vedo quanti ragazzi vedo, anche gli anziani scavalcano. Saltano. Ve lo ricordate la pubblicità dell'olio cuore, Castelnuovo? Ho visto degli anziani così. La maggior quantità di rotture di femore accade in metropolitana. E gli unici che hanno veramente obliterato in ingresso devono farsi la coda anche in uscita. Abbiamo bisogno di recuperare un po' di ordine, del nostro equilibrio, della nostra filosofia zen, che ricordo è anche il nome della mia gatta, Zen. Ecco. Perché abbiamo richiamato il funambolo principe, il funambolo vero, funambolo. Andrea Loreni. Ciao Andrea, buongiorno e ben ritrovato. Ciao a tutti, buongiorno, eccoci di nuovo qua. Ti abbiamo chiamato la scorsa settimana, ci raccontavi come facevi anche funambolismi nelle aziende, ma adesso ne hai fatto uno altro a Roma. Che nelle aziende, hai camminato sulle acque, stavo raccontando ad Alessandro. Sì, questo era vero, era al Tevere a Roma, sopra attraverso il Tevere a Castel Sant'Angelo. Veronica è disperata, dice: me lo so perso. Io veramente, tu me l'hai fatta apposta, io non c'ero. Era quel giorno lì, il tempo era quello che era, quindi era il tempo invernale, terribile, il tempo invernale di cui stavate parlando. Però sei riuscito lo stesso, anticipando un po' la pioggia e un po' il vento, è andata. Ma il terrore di cadere giù nel Tevere e prenderti subito la leptospirosi non ce l'avevi, no? No, ero più preoccupato della lotta con le pantegane che avrei dovuto affrontare. Vedi, dici, quello veniva dopo la leptospirosi, prima dovevi sopravvivere alla pantegana. Ma adesso scherziamo, ma ovviamente a quella quota non era altissima, ma il vento e le raffiche forse è il nemico numero uno del funambolo. Sì, infatti il vento è la preoccupazione maggiore più che la pioggia, e invece quel giorno lì c'era un po' di vento, ma ancora gestibile, siamo riusciti a farla lo stesso. Siete riusciti? È bello che parla sempre in squadra, no? Siamo riusciti a farla perché... Allora, c'è stato un lavoro dei miei tecnici pazzesco anche nei giorni precedenti, anche se pioveva, anche se c'era vento. Alla fine siamo riusciti a farla, vuol dire che anche compreso siamo riusciti a montare il cavo, a renderlo stabile e tutte queste cose qua. Quindi c'è sempre dietro una squadra che lavora con me, quindi siamo. Ma quant'era lunga, Andrea? 140 metri. Accidenti. E in tempo quanto? No, non lo so, non ho ancora guardato i video per vedere che erano tipo 10-12-14 minuti, una cosa. Accipicchia. C'è quel momento, cioè il momento più difficile qual è? La partenza, gli ultimi momenti in cui la tensione, anche la fatica emerge, oppure quel momento a metà in cui uno dice adesso qua se vado da una parte avanti all'altra, indietro, come dire, la strada è la stessa da percorrere. Ma diciamo che ogni momento ha le sue difficoltà, la partenza è quello più complesso in cui fai il primo passo, da lì in poi tornare indietro è sempre più difficile, no? Quindi bisogna andare avanti. La metà è un po' la questione, che è il punto in cui il cavo muove di più, e la fine, il rischio della fine è quello che fai leggero perché tanto sei già arrivato, e invece lì ti freghi perché non sei, cioè fino ad ogni passo è difficile uguale, no? È chiaro. E tutti difficili. Ce ne mancano due, mi rilasso, no? Invece, esatto, invece no. Ne basta uno, ne basta sbagliarne uno. Andrea, quindi... ma la domanda ansiogena te la devo fare. Quante Vai. Sono ogni volta che tu parti da un lato le possibilità reali che tu contempli di cadere? Allora, io come possibilità di cadere non me la do, nel senso non la contemplo tra le possibilità, perché c'è anche la fregatura che... a volte sembrerebbe più facile cadere che andare avanti, no? Allora certo. Se tu ti dai quella strada è una sorta di via d'uscita ma sbagliata che ti inganna, quindi io non me la do come chance. Beh, bellissimo. Poi, cioè che, bellissimo, che non è che basta non darsela perché non accada. No, però, se la dai, però cadere vuol dire rinunciare. Certo. Quante volte sei caduto? Si sarà capitato un po' di volte? In prove, sempre in prove, in spettacolo, in performance mai, durante le prove quando mi alleno più basso, magari provando anche cose nuove o cavi più difficili, qualche volta in prova certo ti cadi, però sostanzialmente tu cadi quando ti permetti di cadere, se non te lo permetti perché non si può cadere non cadi, più o meno così, nel senso che se tu ti permetti di cadere è più facile che succede. Io quando faccio i laboratori, una cosa che noto moltissimo è che molte persone sul cavo, che magari è la prima volta che salgono, tu le vedi e fisicamente sono nel posto esatto, sono giuste, e invece cadono. Perché è più facile appunto cadere e, certo, non hanno la percezione, perché la situazione è di stress, di come è messo realmente il loro corpo. È messo giusto il corpo, ma la mente gli dice guarda, scendi. Cadi che così facciamo prima, è più comodo. Bello, cioè, l'idea già di cadere contempla il fatto che poi possa davvero succedere. Andrea, noi ti dobbiamo salutare, ma ti seguiremo in tutte le tue performance. Sempre. Tanto, un po' abbiamo fatto un programma per te, Andrea, quindi diciamo che siamo obbligati a tenerti d'occhio. Il nostro funambolo principe, Andrea Loreni, lui che funambolo lo è veramente, nel senso che cammina sul filo, noi funamboli lo siamo. Ma perché tutti tu pensi che non ti faccio fare il tè avanti e indietro sul filo quest'estate? Sì, è sicuro, certo. Con sotto i coccodrilli a te ti mettiamo. Dai, il traffico. Quante gane addestrate da me. Traffico. I funamboli. Funamboli, buongiorno. Complimenti, ma guardate, in Austria ci andrei magari io con tutta baracca e burattini, ma ci andrei anche subito. Ciao a tutti. Quest'estate i treni si fermeranno tutti per il caldicidio. No dai, il caldicidio no. Allora, eccoci qua, ecco l'ultima parte dei funamboli, Leonardo. A Bozen Bolzano. A qualcuno piace piatta, ve lo dico. Che cosa? La tassa, sono i titoli della flat tax. A me ero perso tassa, avevo detto a qualcuno piace piatta, non lo so. No, vabbè. Dai Leonardo. No, vogliamo fare questa opera di servizio pubblico che talvolta qui facciamo con il nostro... corso di integrazione per extracomunitari. Spiegando alcune delle caratteristiche dell'Italia agli extracomunitari che non conoscono queste caratteristiche, aiutandoli così ad integrarsi meglio nel nostro paese. Amici extracomunitari, oggi voglio parlarvi di una cosa che interessa molto agli italiani, soprattutto ancora oggi alle donne italiane, cioè il matrimonio, o meglio il giorno del matrimonio. Ci sono persone, soprattutto donne, che si sposano, anche se ormai non sono più innamorate, solo perché sono innamorate e sono interessate a mettere l'abito bianco. Allora, vediamo però come si svolge il giorno del matrimonio, per spiegarlo agli amici extracomunitari. Alle 11 circa, è una bella giornata di primavera, arrivano i parenti. Le donne con improbabili vestiti gialli, rossi, fucsia, bordeaux, vestiti che non metteranno mai più se non un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.30 arriva lo sposo, è teso, sudato, preoccupato, più che per il matrimonio per il vestito che gli hanno fatto indossare, color branzino del Mar Baltico, che non metterà mai più se non un altro matrimonio o al funerale di Elton John. Alle 11.45 arriva Elton John e dice: cosa ci fate con i vestiti al mio funerale? Alle 12 arriva la sposa, bellissima col suo abito bianco. Davanti all'altare lui e lei si scambia la promessa di fedeltà eterna. Gesù dalla croce li guarda e dice: padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Poi gli sposi escono dalla chiesa e gli invitati tirano il riso. Nei momenti di crisi come questa fanno solo il gesto, il riso lo tengono. Alle 14 si va a pranzo. Il ristorante è situato in una frazione di campagna sconosciuta anche al navigatore satellitare. Molti invitati si perdono, vagano nelle campagne per ore, ma arrivano in tempo per il cenone di Capodanno. Un anziano arriva per primo e è ancora solo, ma grida: viva gli sposi! A mezzanotte il pranzo è un punto avanzato, sono finiti gli antipasti. Gli invitati ormai hanno aloni enormi sotto le ascelle, si sono slacciati le cinture, parlano a rutti, una specie di alfabeto Morse. Quando la sposa fa il giro ai tavoli per salutare gli invitati, molti uomini, distrutti dall'alcol che hanno bevuto, ci provano con lei, parlando a causa dell'alcol più o meno in questo modo. Non si capisce bene, ma il marito disapprova e dal fondo della sala dice: poi arriva la torta nuziale, che una volta era fatta di panna a strati con sopra i pupazzi di marito e moglie che si davano il braccio. Adesso sulla torta nuziale i pupazzi sono quattro: marito, moglie e dietro gli avvocati che guardano. E poi comincia la vera vita matrimoniale, ma questa è un'altra storia. Che bella questa giornata del matrimonio, eh? Proprio. Com'è che diceva il marito? C'è Bruno da Roma che mi dicono abbia una polemica sterile, è vero Bruno? Buongiorno, una polemica sterile? Sì, sì, buongiorno, una polemica sterile. Bello. Di estrema attualità. Bello, bello. Oh. Sono due giorni che sui media, dappertutto, si fa la polemica delle foglioline. E non ce ne può più perché è veramente allora... una polemica sterile. Abbastanza. Io sono assolutamente d'accordo. Le foglioline, ma lei che pensa quando ha visto questo logo? Che pensa delle foglioline? Dice: ma io non penso, c'è cioè un logo. Bravo, cioè non pensa che è stato commesso un reato di lesa maestà nei confronti del genere femminile con le foglioline? Oltretutto non è neanche vero, perché nessuno ha parlato che rappresentassero le donne. Comunque, in ogni caso, se anche fosse una polemica sterile. Oggi ho twittato così. Mi sembra che i problemi che devono essere affrontati in Italia. Bruno, se può consolare, anche secondo me, ma anche se ce ne fossero delle donne sarebbero diversi dalle foglioline, secondo allora me. Bruno, però... se può consolare, io due ore fa ho twittato così: il dibattito siamo donne o foglioline interessante come una partita di badminton finlandese. Foglioline, perché evoca subito la velina, la fogliolina, sembra un elemento decorativo, per questo che ha suscitato subito le allora ire femminili. Come femminili. Una partita di cricket. Sì, ma non si capisce perché la gente si ottunde e non capisce, non ha mai detto il povero grasso che le donne fanno senti foglioline. Che deve difendere grasso. Che sono foglioline, senti. E non divento pazzo. Secondo me queste sai cosa sono? Sai cosa polemica. Sono? No, sai cosa sono queste? Sai cosa sono? Sai cosa sono tutte queste polemiche? Ma chi lo sa? Ce l'avevamo. Abbiamo capito. Sono babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. Dai, la prima una B solo, la seconda con due B. Babbarie. Mettiamolo nello zingarello. Non abbiamo chiesto se è entrato nello zingarelli. Qualche babbarie, parola di De Luca? Babbarie. Va bene, dai, dobbiamo salutare tutti con Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Miriam Lucchetti in redazione dei Funamboli e il nostro Peter Bescapè in regia insieme qui ad Alessandro Chiappini, credo, lì a Roma. No, ti è, guarda, ti fa un gesto proprio... Rocchetti. Sì, hai capito? Di a Valerio Canocchetti che abbiamo recuperato due punti alla Roma. La rimontata è iniziata. La risposta rimontata. È stata ma falla finita. La rimontata. È iniziata la rimontata, fa poraccio con le mani della serie Poraccio. Ci vediamo domani.